due cotai, sta bene a riare. Insieme a Libiciotti, giuste vibrazioni se capisci ciò che ascolti. Niente distorsione, la realtà che se la cerchi la trovi in ogni lirica da pane ai nostri denti. Sole senza clone, unico e originale. Si nunzia siciliano, ora Sicilia un po' parlare. Male, se visto solo il mare. Picchica Libiciotti hanno avuto già chi pensare. Dall'oscura rabbeggiante che fa cattedrali e cupole. Su veri anche i profetici vecchietti culi coppole. Sotto le spiaggette chi marrussi non li nati. Che per via del sole siculo che non risparmia pietre. Se ci siete so già che rimarrete. Come pisci tieti annaghiati alla sua rete. Come un zaffaglione impiccicati alla parete. Come l'acqua che soddisfa la mia sete. Senti Brio quando abbannio insieme ai Libiciotti. Giuste vibrazioni se capisci ciò che ascolti. Niente distorsione, la realtà che se la cerchi la trovi in ogni lirica da pane ai nostri denti. Le femmine, le radici, migliaia di parenti. Comprese tutte cose che non su più funzionanti. L'istinnicchiato sulle mattinate roventi. L'abbannio agli mercati in mezzo ai monumenti. E chissà la Sicilia che c'ho impressa nella mente. Vita che mi chiama sempre quando sogno continente. Che dopo una settimana già mi vena nostalgia, perché tutta la Sicilia è tutta casa mia. Sicilia con nave e bacione, pigliala come tanto non sai. Se fai a non gennai, la bruci quando la va son della scorte. Mai, mai, mai, mai, scordatevi lo pare. Coppo le minchiate varie, mendo sangue innocente. Magna nato funerale, è normale. Ma c'è con mangia e fa mangiare, c'è con bocca a male. Andiamo a lottare, a niente ne piace. Yo, it's a for peace, la king, la pace. Senti Brio quando abbannio insieme ai Libiciotti. Giuste vibrazioni se capisci ciò che ascolti. Niente distorsione, la realtà che se la cerchi la trovi in ogni lirica da pane ai nostri denti. Sicilia, ragamati, rengi questo popolo, visto sulle piste casti. Rengi queste case, tu ne dio, sa tu mi sci.